2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Di Enrico Pagliarini. Questa è una puntata speciale di 2024, benvenuti o bentornati, la puntata del 30 novembre e anche del 1 dicembre, visto che abbiamo la replica notturna, allora salutiamo i nostri ascoltatori che ci ascoltano nella replica della domenica sera. Benvenuti o bentornati, io sono Enrico Pagliarini, a fianco a me c'è Matteo Flora, bentornato anche a te Matteo, ciao. Ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Matteo Flora è un esperto di sicurezza, oggi parleremo in questa prima parte di 2024 di sicurezza, poi vi spiegheremo anche il motivo per cui abbiamo scelto questo argomento. Tu hai fondato una società che si chiama The Fool, non so se hai preso spunto da te stesso. The Fool in inglese significa il pazzo. Perché ti manca qualche rotella? No, The Fool è anche la carta dei tarocchi, il matto. Ah, e quindi la forza, in italiano sarebbe la matta. Esatto, la forza creatrice dell'universo. Allora, noi abbiamo scelto di parlare di sicurezza perché durante l'estate abbiamo commentato un po' di cose che sono accadute, che sono state svelate da Edward Snowden. Devo dire, Matteo, che molte delle cose che sono state dette, soprattutto sulla stampa anglosassone, beh, non hanno stupito più di tanto gli addetti ai lavori. Molti sulla stampa internazionale si sono stupiti, oddio, i servizi segreti spiano ovunque, anche attraverso internet. Gli esperti tutti dicevano, beh, internet è la macchina perfetta per spiare. Sì, ci siamo trovati nella community degli esperti di sicurezza in una posizione particolare. Dalla notte alla mattina siamo diventati i paranoici assurdi e schizofrenici a cui non bisognava più prestare attenzione, e la mattina dopo ci siamo svegliati contro quelli che in realtà erano più realisti del re. Non è stato un bel risveglio, devo dire la verità, preferivo la paranoia. Senti, se tu dovessi riassumere in estrema sintesi quello che abbiamo scoperto, ma soprattutto quello che accade, perché io tengo sempre spesso a sottolineare un fenomeno che forse non appare così bene ai più, cioè quello dello spionaggio industriale digitale, perché è vero che i servizi segreti fanno molte cose, ma forse dobbiamo preoccuparci soprattutto dello spionaggio industriale, giusto? Beh sì, intanto ci siamo accorti che esiste un governo sovrano, quello americano, che a quanto pare per anni, per decenni, ha intercettato qualunque tipo di comunicazione sia nel territorio nazionale che estero, con la cooperazione dei servizi di molte altre nazioni, una delle più forti con quello inglese, andando a intercettare comunicazioni degli utenti, andando a intercettare i contenuti delle caselle di posta elettronica, andando ad archiviare tutte queste informazioni in una base dati enorme sulle singole persone, a cui software dedicati che sono stati sviluppati negli anni danno la possibilità, dato una mail, dato un nome, dato un cognome, di trovare tutta la storia digitale e tutte le interconnessioni di amicizie e di relazioni all'interno di buona parte del mondo conosciuto, e ciò è male. Ci siamo oltretutto documentati e siamo riusciti a scoprire che queste informazioni venivano recuperate in modo, diciamo, abbastanza peculiare, cioè andando direttamente a intercettare le grosse dorsali oceaniche, andando direttamente nei punti di smistamento di queste dei informazioni. Dati, sì. Cosa che fanno tutti i servizi segreti, non solo quelli americani, ma è molto probabile ed è quasi certo che la stessa cosa la facciano i servizi segreti cinesi, giapponesi, russi, israeliani, ma potrei fare una lista molto molto lunga, giusto? Allora, assolutamente sì. Il problema è che siamo d'accordo e sappiamo benissimo, perché non siamo così naive, che ogni servizio segreto in giro nel mondo fa quello, procaccia informazioni. Quello che invece abbiamo scoperto è che esiste in questo caso una vera e propria architettura dedita a questa, che non va a seconda delle necessità a puntualizzare su un punto particolare da cui partire nell'intercettazione, un episodio, una cellula terroristica, una zona del mondo, ma viene fatto indiscriminatamente all'interno di tutte le informazioni che passano nella rete. mi permetterai, è un filo differente come concezione. Certo, allora ricordo ai nostri ascoltatori che ci seguono come sempre attraverso la radio e anche attraverso il podcast, che questa settimana avrete sentito anche dall'atmosfera che vi stiamo trasmettendo, siamo in diretta da Fiera Milano City, dove si sta svolgendo in questo weekend, in questo venerdì e sabato, Forum Agenti, quindi Radio 24 è partner di questa fiera, siamo in diretta anche noi da questa manifestazione. Noi oggi però, Matteo, non siamo tanto preoccupati o non vogliamo occuparci di quello che abbiamo raccontato da quest'estate per tante settimane, cioè di quello che abbiamo scoperto o di quello che abbiamo raccontato e magari alcuni sapevano già. La domanda che io vorrei fare, vorrei condividere con i nostri ascoltatori è: prima di tutto dobbiamo preoccuparci, e io vedo che nel mondo pochi si preoccupano delle informazioni. Noi oramai scambiamo email, abbiamo documenti ovunque sui computer, sui server, in the cloud, ma pochi si preoccupano della sicurezza. Poi scopriamo che questi dati li perdiamo, ci vengono rubati, e fossero dati solo personali uno potrebbe dire bah, insomma, poco male, ma il problema è che molti di questi dati sono dati importanti, sono dati aziendali. Io ricordo sempre una cosa molto, molto interessante, il CLUSIT, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, ha detto: stiamo assistendo al più grande furto della storia dell'umanità, proprietà intellettuale che passa da un continente all'altro e pochissimi se ne preoccupano. C'è chi dice che il futuro è conseguenza del presente, quindi bisognerebbe preoccuparsene. Allora raccontaci un po' che cosa sta succedendo e che cosa dovremmo fare. Sta succedendo che vi è una presa di, diciamo, consapevolezza a livello mondiale che la sicurezza, che prima era volta solo a questi individui cattivi, i cracker, i criminali informatici, forse ha bisogno di essere strutturata anche e soprattutto come processo aziendale. Sfortunatamente nella sicurezza informatica si impara sbagliando, e quindi tutte le grandi decisioni sono state prese solo ed esclusivamente a seguito di eventi traumatici da un punto di vista di insicurezza informatica. Se ci pensiamo però succede così in qualunque ambiente. Abbiamo le porte blindate a casa perché abbiamo scoperto che le porte non erano più sufficienti, abbiamo la targa sulla macchina perché a un certo punto le autorità hanno detto bisogna tracciare questi folli assassini che girano sugli autoveicoli. La sicurezza informatica, saliamo sugli aerei e ci fanno mille controlli. Io mi ricordo quando ero piccolino non saliva sull'aeroplano come sul treno. Sì, in effetti l'ultima volta ho rischiato di salirci nudo per i controlli, non era una bella visione, il problema è quello. Quindi ci stiamo lentamente, io dico lentamente perché non mi sembra che ci sia questa euforia nazionale, no. Ci stiamo lentamente accorgendo che bisogna preoccuparsi. Abbiamo iniziato a preoccuparci delle password, da quando? Da quando negli ultimi anni ci sono state queste fughe di informazioni e abbiamo scoperto ad esempio che usare la stessa password su decine di siti diversi è male, perché quando qualcuno si buca uno di questi siti rischia di bucarci tutti gli altri a catena. Quando dici bucare significa? Quando qualcuno recupera illecitamente informazioni da un sito web, ad esempio l'elenco di tutti i nomi utenti e le password, come è successo recentemente ad Adobe con decine e decine e decine di milioni di user e password. Se abbiamo una password unica per tutti i nostri servizi, ovviamente se diciamo rubano quella password ci hanno rubato tutte le altre. Esatto, e magari ci rubano una password di un servizio abbastanza stupido, magari ci rubano una password di un servizio che non usiamo più da anni, ma con la stessa password riescono a ottenere le entrate di tutti, in tutti gli altri nostri account. Bene, a questo punto il livello si è alzato, perché se prima solo una fascia di paranoici come me, come buona parte degli esperti di sicurezza italiani e mondiali, pensavano che fosse possibile questa grossa pesca a strascico di informazioni, oggi sappiamo che è realtà. I governi si stanno già muovendo, la Germania ha varato una serie di norme per nazionalizzare la posta elettronica e obbligare le pubbliche amministrazioni ad utilizzare posta elettronica che sia all'interno della stessa nazione. Tanti altri paesi, il Brasile in primo, ha avuto una risposta molto vocale alle ingerenze di differenti stati, soprattutto degli Stati Uniti, all'interno della sua parte nazionale. La Germania, vi è stato anche lo scandalo dove i documenti di Snowden hanno dimostrato che vi era un'intercettazione su Angela Merkel e su tutto il governo. Quindi gli stati si stanno muovendo e parecchie grosse aziende iniziano a capire che lo spionaggio industriale non è un film di fantascienza, ma è assolutamente la realtà. Allora, tu hai già detto una cosa che mi interessa molto. Allora, hai detto servizi di posta elettronica nazionali. Che cosa intendi dire e che cosa consigliamo anche ai nostri ascoltatori, anche a me? Allora, consigliare è una parola forte, però da quello che sappiamo noi adesso, la buona parte delle intercettazioni che fanno gli Stati Uniti, e quindi presumibilmente possono fare altre realtà gli Stati Uniti, che fanno sicuramente tutti gli stati, mi verrebbe da dire, non lo so, rischia di essere diffamazione, diciamo che se lo può fare uno non vedo perché ci siano dei grossi impedimenti a farlo fare a qualcun altro. Sappiamo che buona parte di queste intercettazioni avviene quando i flussi vengono spostati sulle grandi rotte internazionali di trasferimento di traffico, quindi quando io utilizzo una casella di posta elettronica che risiede negli Stati Uniti, ad esempio, o quando io mando o ricevo mail direttamente attraverso una casella di posta di questo tipo. Sappiamo ad esempio che l'NSA, senza la volontà a quanto pare di Google, è riuscita però a intercettare tutte le caselle di posta elettronica. Sappiamo che ha avuto in mano i backup delle caselle di posta elettronica di Yahoo, quindi sappiamo che esistono dei servizi che ci mettono a rischio da questo punto di vista. Uno dei modi per sopperire a questo rischio è, nelle comunicazioni, iniziare a prediligere, non dico tanto operatori nazionali, anche se in realtà tecnicamente è quello che sappiamo essere sarebbe utile. Meglio fare, sì, sì. Sì, vi sono problemi diversi come il de-peering di Telecom Italia ultimamente, sì. Però diciamo buona parte del problema è lì, e oltretutto scegliere servizi che esplicitamente mi raccontino e mi dichiarano come trattano i miei dati e come li gestiscono. Allora, questo è interessante, andiamo anche più sul concreto. Sì. Noi, dico purtroppo, ci siamo abituati a utilizzare molti servizi americani che ci danno la posta elettronica gratuita, molti servizi internazionali, non solo di posta elettronica, ma anche di social network, citiamo Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. Quindi tu dici, affidare le informazioni a questi strumenti, abbiamo visto che ci mettono in vetrina, in un ambiente dove questi dati possono essere. Soluzione qual è? Esistono dei servizi italiani o europei che sono garantiti contro questo problema? Senza fare favoritismi a nessuno degli operatori, sì, ne esistono vari anche su territorio italiano, ne esistono alcuni storici. Faccio un esempio, giusto non per fare pubblicità, ma di 1984 Hosting, islandese, che da un decennio a questa parte garantisce tutta una serie di standard di servizi interessantissimi. Ma ce ne sono molti altri che fanno della resilienza, della resistenza, della resistenza all'intercettazione e anche a un abuso dell'autorità giudiziaria nel richiedere i dati, fanno proprio una bandiera di vanto. Ora, c'è anche da capire, come già dicevamo in un altro nostro incontro, che in qualunque servizio dove io non pago, non sono il cliente, sono la merce in vendita, quindi non posso sorprendermi del fatto che le mie informazioni, i miei dati, la mia profilatura sia una merce di scambio su molti social network, perché devo sapere benissimo che è proprio così che funziona la dinamica di business di quel social network stesso. Bene, adesso ci fermiamo per le informazioni che arrivano da strade e autostrade. Prima però vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24, che vi consiglio come sempre di utilizzare abbonandovi al nostro servizio in modo molto semplice e molto facile. Potete scaricare il file MP3 della nostra trasmissione, e ricordo anche che potete contattarci tramite la nostra pagina Facebook e anche sulla pagina Twitter. Un nostro ascoltatore su Twitter ci tira le orecchie perché dice che il matto dei tarocchi e la matta della scala 40 non sono la stessa cosa, quindi ha detto Pagliarini è un po' ignorante in materia. Mi scuso con gli ascoltatori, abbiamo imparato anche questa cosa. Riprendiamo questa puntata di 2024, questa settimana in diretta dal Forum Agenti. Siamo a Fiera Milano City, quindi la sede cittadina della Fiera Milanese. Questa è una fiera dedicata agli agenti, e quindi sicuramente molti tra gli agenti sono nostri ascoltatori, perché buona parte della loro vita la passano in automobile, e sappiate che grosso modo il 65% degli ascoltatori della radiofonia, e sicuramente Radio 24 è in linea con questo dato, ci ascoltano dall'automobile. Poi io spero che gradualmente questa percentuale aumenti anche per il podcast, che è un sistema, visto che noi ci occupiamo di tecnologia. Questo è 2024, io sono Enrico Pagliarini, con me c'è Matteo Flora, che è un esperto di sicurezza, che è sempre difficile avere con noi, ma noi siamo contenti di averlo oggi ospite in diretta. Allora Matteo, ma scegliendo un servizio di posta elettronica nazionale o che comunque ci garantisca in modo trasparente la sicurezza, cioè faccia della sicurezza il proprio business, magari anche un servizio a pagamento. Io sarei disponibilissimo a pagare 20, 30, 50 euro all'anno per avere un servizio di posta elettronica che mi garantisce maggiore sicurezza rispetto ad altri servizi di posta elettronica. Ecco, ma ci garantisce completamente o mica tanto? Perché se io mando poi a te un messaggio di posta elettronica e tu stai su un server americano, cinese, russo, cosa succede? Allora, innanzitutto la sicurezza è anche una manovra di marketing, cioè è assolutamente vero il fatto di dire sono disposto a pagare, non solo, ma questo genera una domanda per dei servizi cifrati o dei servizi sicuri che attualmente non è così spinta. Quindi io auspico una continua uscita di documenti per spingere quella che è la sicurezza generale. Ah, interessante questo. Cioè tu dici vengano e arrivino tanti Snowden. Beh, assolutamente sì. Se l'unico modo per migliorare il livello qualitativo base della sicurezza è una scare tactic, una tattica del terrore, devo dire la verità, in modo abbastanza machiavellico, ben venga altra paura, sì, fondata ovviamente, non se campata per aria. Ora, esiste la possibilità di cifrare i dati con una serie di meccanismi anche open source che tra l'altro conosciamo da anni, ma ancora una volta non sono mai diventati così diffusi per questo trade-off, per questa differenza costo-beneficio. Ora, se io non ho un beneficio percepito, cioè se per me non è un beneficio il fatto di che la mia mail venga cifrata, perché dico tanto chi vuoi che mi ascolti, chi vuoi che mi intercetti, ovviamente non sono disposto a pagare il costo, che in questo caso è un costo di un filo più di difficoltà tecnica, non moltissima, solo un filo di più. Se adesso invece io inizio a percepire il costo del fatto di essere potenzialmente intercettato, magari non da un governo nazionale, ma dal mio competitor o da un competitor dall'altra parte del mondo, probabilmente posso iniziare a essere virtuoso. Esistono sistemi open source anche diffusi. OpenPGP è uno dei. Però continuo a dire, tutte le volte che finiamo a parlare di queste cose, io dico questi servizi e questi sistemi sono troppo difficili. È vero, è assolutamente vero, ma anche quello è una scelta di marketing, cioè finché sono solo pazzi, folli, paranoici che utilizzano un sistema di cifratura, questo sistema di cifratura sarà fatto a misura d'uomo per un pazzo, folle, paranoico. Non ci sarà una visione sempre più nel portale, cioè, al sicuro. Tu dici, non esiste ancora un mercato. Esatto, infatti, inizia a nascere. Infatti io dico molto spesso agli operatori, voi state perdendo delle occasioni perché il mercato sta nascendo, ci sarebbe, ma voi non offrite servizi. È vero, ti dirò la verità, ci sono anche degli esempi virtuosi di questo. Esiste un sistema di messaggistica sicura multiutente che è stato utilizzato massivamente durante la primavera araba, che si chiama CryptoCat, ed è simpatico perché ha questa iconcina del gatto, che è fatto da questo ragazzo che ho incontrato più volte nei convegni internazionali, Nadim, che ha creato questa chat che adesso viene utilizzata da centinaia di migliaia di persone, ed è una chat nata sicura, anche se ha avuto un paio di incidenti di percorso, ma mano a mano migliora. L'altra cosa importante da capire è che gli operatori di posta potrebbero fare molto per alleviare, se non per annullare, l'intercettazione da parte di terzi. Basterebbe iniziare a utilizzare gli scambi di mail tra operatori in modo cifrato. Ha iniziato a farlo la Germania, facendo in modo che un grosso consorzio di provider di mail all'interno del territorio nazionale iniziasse a scambiarsi da server a server le mail in modo cifrato. E ti preannuncio che vi è anche un'iniziativa che sta nascendo in Italia, volta a una lettera aperta a una serie di operatori sotto l'egida di Hermes, il Centro Studi Trasparenza e Diritti Umani, per richiedere agli operatori nazionali un intervento di questo tipo per garantire almeno all'interno del territorio nazionale il concetto di sovranità digitale, cioè il fatto di essere sovrani all'interno del nostro spazio digitale delle comunicazioni digitali, magari anche riservate. Questo è estremamente interessante ed estremamente importante. Continuo a dire, siamo un paese che ha molte piccole e medie imprese che si basano su proprietà intellettuale molto preziosa. Beh, sappiate che sicuramente ci sono tanti occhi digitali che questa proprietà intellettuale se la vogliono prendere, e quindi è importante proteggerla, anche se siamo una piccola azienda, anzi a maggior ragione se siamo una piccola azienda e i brevetti che abbiamo, la proprietà intellettuale che abbiamo in azienda è il nostro asset fondamentale. Senti, un'altra cosa che sta accadendo, e anche su questo c'è una forte pressione di marketing, quindi con offerte commerciali incredibili, molto ammalianti, il cloud. Quindi noi non abbiamo più i dati residenti nel nostro perimetro aziendale e finiscono su internet con tantissime comodità. Ma tutti questi dati sono potenzialmente alla mercé dei soggetti che abbiamo descritto prima? Beh, salvo dei servizi di cloud abbastanza evoluti che magari offrano un'autenticazione a due vie, il classico col token o con gli SMS, dobbiamo capire che questi dati sono a disposizione di chiunque abbia la mia password. E questa, lo capisco che è una banalità da un punto di vista di esposizione, ma molti sembrano non pensarci. Chiunque ha la mia password, e se uso la stessa password per molti servizi, una delle mie password, tecnicamente può entrare. Può entrare e fare cosa? Può entrare e fare davvero il bello e il cattivo tempo. Pensiamo ai device Apple, ma anche ai device Android, dove può avere la mia geolocalizzazione, la mia posta, la possibilità di acquistare beni o servizi, ma anche tutta la mia history di movimenti. Sono informazioni importanti. Ora, il cloud non è il male assoluto, assolutamente no. Anzi, è un processo estremamente utile per poter scalare dove altrimenti avrei bisogno di ingenti costi locali. Bisogna prenderlo con un certo occhio di riguardo, cioè preferendo quei servizi che offrono magari sistemi di crittografia forti, non tutti i sistemi cloud sono cifrati, o anche introducendo sistemi di crittografia a livello del mio lato e condividendo sul cloud solo dei contenuti cifrati, che a questo punto diventano non così pericolosi. Ma perché? Perché ovviamente sono già cifrati a livello di partenza. Esistono servizi di cloud che cifrano i dati, altri no. È abbastanza facile, cercando su internet, capire quali sono gli uni e quali sono gli altri. Torno al punto di prima. Non è così facile. Non è così facile, è vero. Ma non è così facile perché, ancora una volta, la decisione è basata sul marketing. Finché non ci sarà una grossa pressione da parte dei clienti che continuano a chiedere crittografia, nessuno implementerà la crittografia. Ma è normale. È normale perché è un po' come nelle tariffe telefoniche. Finché non c'è una richiesta forte o un primo... Sì, non si sa dove si debba partire prima. Beh, noi siamo consumatori, di sicuro possiamo far partire il nostro esercizio di consumatore prediligendo e portando i nostri soldi in un servizio che offre più garanzie. Questo è interessante. Magari dopo la trasmissione o comunque nei prossimi giorni lo metteremo nella nostra pagina Facebook, così anche noi diamo i nostri dati agli americani. Ti chiederemo qualche nome, qualche consiglio un po' più concreto per avvicinarsi magari, che ne so, a un bel servizio di posta elettronica cifrato. Sì, non sono molti, quindi sarà facile fare l'elenco. Si fa presto a fare l'elenco. Ecco, già questo. Ecco, poi una cosa che mi piace ripetere, ho sentito recentemente ad un convegno sulla sicurezza una persona che diceva: non si capisce perché, non so se tu lo capisci, quando io ho un problema di salute vado naturalmente senza pensarci dal dottore, se ho un problema col fisco vado più o meno semplicemente dal commercialista, magari chiedo subito ad un amico ma poi finisco col commercialista, se qualcuno mi denuncia vado dall'avvocato, se ho un problema di sicurezza non vado dagli esperti. Beh, questo è un annoso problema, sì, o se no vado dal nipote che è un mago del computer o dal vicino, il cugino. Sì, diciamo che stiamo assistendo a un fenomeno di consumerization, dicono gli americani, cioè dove un processo prima aziendale diventa nelle mani del consumer, dell'utente finale. Quindi stiamo vedendo degli utenti finali che sono molto più scafati di qualche anno fa. Il problema è sempre quello, è che esiste un limite in cui io posso gestirmi normalmente una serie di processi, ne esiste un altro in cui magari ho bisogno di una mano. Ma anche in cose banali, non so quanti tra gli ascoltatori ad esempio utilizzano su Facebook il sistema di login più sicuro dei due, cioè quello dove se entra, anche se entro con il mio utente e la mia password, ma da un dispositivo che lui non ha mai visto, mi arriva un SMS che mi chiede: sei veramente tu? O adesso lo fanno direttamente con un codice nell'applicazione Facebook. Ora, io non so quanti utenti hanno attivato questa cosa, e qui si tratta solo ed esclusivamente di conoscere, solo di percepire una necessità. Bene, Matteo, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ricordiamo, tu l'hai ricordato mentre parlavi poco fa, che tu sei uno dei fondatori del centro Hermes. che fa tutta una serie di cose interessanti. Sì, Hermes si occupa di diritti umani digitali, di tecnologia, quindi crea sistemi ad esempio per il whistleblowing, cioè per consentire a delle fonti, pur rimanendo anonime, di interloquire con un soggetto terzo, che può essere un quotidiano, che può essere un governo nazionale. Cioè, se ho delle informazioni che ritengo sensibili, esatto, sensibili, o comunque che ritengo che la popolazione debba conoscere. Esatto, attualmente i giornali spesso non fanno nient'altro che mettere un indirizzo email a cui spedire questo contenuto, senza pensare che la mail, per i motivi che tu hai detto prima, non è un media sicuro, soprattutto parlando di governi nazionali, e servono sistemi che garantiscano al whistleblower, cioè a colui che fa da vedetta civica, a colui che mi fornisce l'informazione. Sì, talpa è un concetto spregiativo che in realtà non potremmo applicare a Snowden, ad esempio. Il whistleblower è quasi sempre nell'iconografia moderna, è più un eroe che non una talpa, e la talpa in genere dà ai cattivi l'informazione, non la dà ai buoni. Certo. Ora, da questo punto di vista ci sono tecnologie, e altra cosa che fa Hermes spesso e volentieri è, come in questo caso, chiacchierare, diffondere e raccontare la sicurezza digitale. Come si chiama questo servizio? Il servizio di whistleblowing si chiama Globalix. Globalix. Grazie a Matteo Flora, buon weekend e buon lavoro, ciao. Grazie, ciao. Adesso ci fermiamo per qualche minuto. Questo è 2024, oggi siamo in diretta dal Forum Agenti, da Fiera Milano City. Ci risentiamo tra poco. 2024. Riprende 2024, la seconda parte del nostro programma. Io sono Enrico Pagliarini, oggi siamo in diretta dal Forum Agenti, Fiera Milano, la parte milanese, potremmo dire così, la parte cittadina della Fiera di Milano. Accanto a me c'è Gianfranco Giardina. Gianfranco, bentornato. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Bentornato Gianfranco Giardina, che guida, dirige il magazine digitale dday.it, lo potete raggiungere www.dday.it. Noi oggi parliamo di un argomento di cui ci eravamo occupati l'ultima volta 5, 6, 7 anni fa, parecchio tempo fa, poi ci siamo dimenticati, dormivamo sonni tranquilli. Invece da qualche settimana qualcuno, allora io dormo comunque alla sera, penso anche tu, però devo dire che sta riproponendosi una cosa che non mi pare molto positiva per lo sviluppo tecnologico del paese, per lo sviluppo e la diffusione della cultura digitale. Parliamo di una cosa che può sembrare strana e da addetti ai lavori, in realtà parliamo di una cosa che riguarda praticamente tutti: chi compra uno smartphone, chi compra un tablet, chi compra un computer, chi compra un televisore. Adesso anche chi compra un televisore. Incredibile. Sì. Allora, si chiama equo compenso, ma a te non piace che io chiami? No, non è corretto. Si chiama compenso per copia privata. Ed è un compenso che viene trattenuto, o meglio versato, da chi importa in Italia o produce in Italia tutti questi apparecchi, i supporti, le memorie, eccetera, eccetera, e va versato alla SIAE per compensare gli autori e gli editori, quindi i cosiddetti aventi diritto, degli utilizzi in termini di registrazione e di riproduzione di contenuti protetti che vengono poi fatti con questi supporti. Benissimo. La ratio di questa, allora, molti la chiamano impropriamente, qui lo diciamo subito così, non è una tassa ma è una assolutamente gabella, no, potremmo dire così, è comunque una sono soldi che vengono presi su questi strumenti che ho ricordato poco fa, secondo una ratio molto semplice. Io compro legalmente una canzone, un film, e la legge mi permette di farne copia privata, una copia per uso personale su un altro strumento, giusto? Sì, ma non da cedere a terzi, per utilizzo personale, esattamente. Diciamo, in un mondo, nel mondo di qualche anno fa, questa ratio era molto più comprensibile, anche oggi per certi versi, ma oggi succedono cose strane, o comunque l'assurdità di questo meccanismo viene messa in evidenza da un esempio molto facile da capire. Se io compro uno smartphone, questo smartphone lo uso solo per fare le fotografie durante le vacanze, per girare qualche video e null'altro, poi naturalmente per fare telefonate, andare su internet, eccetera, eccetera, devo qualche cosa, e non si capisce per quale ragione, alla SIAE, senza che io abbia toccato, diciamo, il mondo dei, dei diritti d'autore. Sì, no? Infatti questo è il punto più critico di tutta questa vicenda, cioè il fatto che c'è un'applicazione di questo compenso a prescindere. Esatto. Se io sono, ecco, se io sono un agente di commercio, quindi siamo alla fiera degli agenti, al forum agenti a Milano, sono un agente di commercio, compro un tablet per lavorare, compro un computer per lavorare, devo obbligatorio, è già compreso nel prezzo, diciamo, quindi posso fare niente, insomma, per forza pago una quota dei miei soldi alla SIAE. Quanto pago, ad esempio, su uno smartphone? Quanto pago su uno smartphone? Attualmente è 0,90 euro, quindi è quasi un euro per un euro smartphone. Vabbè, non è tantissimo, però però ogni anno si vendono 37 milioni di smartphone, cioè, quindi qualcuno può fare i conti. Ah, certo, scusa, se lo smartphone costa 100 euro costa 300 euro uguale? E in questo momento stranamente l'applicazione sugli smartphone è assolutamente piatta. Dire. Mentre... se compro un hard disk? Ah no, un hard disk è molto diverso. Aia. Un hard disk è molto diverso, quindi qui lì dipende se ci sono le uscite video di questo hard disk, quindi se è un hard disk esterno pensato proprio per il video oppure un hard disk esterno non pensato per il video. Però tanto per fare un esempio, un hard disk esterno da 500 gigabyte, un medio disco esterno paga 5 euro, quindi 5 euro di compenso che vanno alla SIAE. Il nostro amico agente di commercio paga la SIAE, non si sa per quale strana ragione. Allora, diciamo subito una cosa, perché questo potrebbe sembrare un argomento non attinente ai temi classici di 2024. Noi ci occupiamo di tecnologia, di innovazione tecnologica. Per quale motivo, e io condivido la tua preoccupazione, tutto questo che sta accadendo e i rincari a cui siamo di fronte minano lo sviluppo tecnologico, ci mettono sempre alla periferia tra i paesi, quando i prodotti magari in Italia escono dopo altri paesi. Uno dei motivi è anche questo. Allora, perché questo mina la diffusione della tecnologia, lo sviluppo di una cultura digitale, eccetera, eccetera? Innanzitutto vanno chiaramente a, in molti casi, nella stragrande maggioranza dei casi, in maniera del tutto impropria, a caricare i prezzi degli apparecchi e quindi vanno poi a pesare sulle tasche di tutti i cittadini. E questo dico in maniera impropria, perché questo prelievo a prescindere, anche se è basato su logiche statistiche, però la statistica va bene per chi incassa, non certo per chi paga, e per chi paga in molti casi assolutamente in maniera impropria, e allora in quel caso assolutamente non va bene. Inoltre si creano delle situazioni per cui siamo in un mercato unico europeo ma abbiamo dei prezzi, per esempio basti vedere, non so, se uno vede, non so, i device Apple, tanto per fare un esempio, hanno dei costi in Italia che sono leggermente diversi dai costi degli altri paesi. Ecco, in molti casi questo dipende proprio dall'applicazione di questo compenso che evidentemente Apple sostiene, paga, ma poi scarica sull'utente finale. Questo che cosa comporta? Comporta un'improprio importazione da paesi esteri di memorie, supporti, device, ovviamente in evasione SIAE, diciamo così, però in evasione è anche un termine improprio. Se io compro in realtà utente finale da un sito estero non sto evadendo nulla, perché non è l'utente finale che deve pagare, sarebbe chi importa, ma se io importo per acquistare come utente finale non devo certo pagare la SIAE. Quindi si crea anche delle situazioni di concorrenza sbilanciata rispetto a quello che succede, cioè degli operatori italiani, dei retailer italiani nei confronti dei retailer esteri, oppure dei retailer onesti nei confronti dei retailer disonesti. Ma comunque il fatto sta che poi non essendo neanche una tassa, come abbiamo detto, e anche tutta la normativa per le evasioni fiscali non si applica, e quindi anche poi cercare di contenere queste evasioni. E poi vorrei che tu facessi un esempio, ma è un esempio di un prodotto, ad esempio, dove non è stato messo l'hard disk. Dovrebbe esserci, allora, l'hard disk, ma non è stato messo l'hard disk perché, e questo vuol dire, significa che nel nostro paese alcune offerte di tecnologia non possono essere uguali a quelle della Germania, dell'Austria, eccetera, eccetera, per questo motivo. Esistono infatti molti, molti casi, per esempio tutti i decoder che possono registrare su hard disk. Mi viene in mente per esempio il Digimax di Umax, che è uno splendido prodotto. E viene venduto necessariamente in Italia senza hard disk. È chiaro che è una macchina che perde buona parte delle sue potenzialità senza hard disk, perché gli apparecchi con hard disk integrato sono tartassatissimi da questo compenso. Se hai. Beh, dovremmo vedere a seconda delle capacità, a seconda degli apparecchi. Comunque, per esempio, memoria hard disk, leggo, perché poi sono tantissime le fattispecie, integrati in hard disk, ecco qui, per i produttori multimediali, macchine per la riproduzione multimediale, un hard disk da diciamo 2 giga. 2 giga, va bene. Da 2 tera? Da 2 tera paga 30 euro. Pazzesco. Un hard disk da 2 tera è un oggetto che costa oramai 60-70 euro, quindi la parte SIAE, 60-70 euro nudo, senza SIAE, la parte SIAE incomincia a pesare per il 30% del valore del bene, no? Per un hard disk che molte volte non verrà mai utilizzato, sì, per copiare. Vabbè. O comunque faccio questo esempio che è molto importante, quello dei TV, che sono assoggettati adesso di tutti i TV fino a un massimo di 6 euro e mezzo ciascuno, è l'1,5% del valore, i TV che possono registrare su hard disk, cioè oramai la stragrande maggioranza dei TV. Il problema è che paga il TV perché può registrare, pago l'hard disk che ci devo attaccare al TV, perché il TV è senza hard disk, pago anche sull'hard disk, quindi pago due volte, e che cosa posso fare con quel TV? Registrare una trasmissione che può essere vista solo su quel TV, perché siccome è criptata non può essere spostata, quindi posso fare solo time shifting di fatto, posso semplicemente registrare perché non sono in casa e rivedere più tardi. Qual è la ratio? Perché io, sì, se registro il TG1 piuttosto che una qualsiasi trasmissione e la rivedo dopo 2 ore, devo dare un contributo alla SIAE? Ecco, io non riesco a capirlo, forse giuristi valenti potranno spiegarci. Prima della pausa che faremo tra poco per le informazioni, perché è in viaggio, quindi anche molti agenti di commercio, intanto faccio una fotografia per documentare il fatto che siamo in diretta dalla fiera dal forum agenti. Che cosa sta succedendo adesso? Cioè, perché noi ne riparliamo? Beh, ne riparliamo perché periodicamente c'è la rideterminazione dei compensi. Quindi il ministro dei beni culturali, Vrai, ha in carico, delega di fatto dalla legge già vigente, di rideterminare questi compensi e rideterminarli nei valori ma anche nelle fattispecie soggette. E questo accade periodicamente ogni quattro anni, eccetera, eccetera. Il punto è che dai primi rumor e dalle indiscrezioni che si stanno avendo sui lavori in corso a livello ministeriale, si pensa che cambieranno un po' le fattispecie soggette e cambieranno anche i pesi, cioè per inseguire l'evoluzione tecnologica che si sta spostando sempre più sul mobile, sempre più sui device, e quindi questo 0,90 di cui parlavamo prima per gli smartphone sarà seriamente messo in discussione. Si parla addirittura che possa essere tariffato l'hard disk virtuale, quindi non più l'hard disk che io posseggo, ma quello di cui parlavi anche prima, nella prima parte della trasmissione, è cosiddetta cloud. Addirittura? Quindi si pensa che possano essere tariffati SIAE i data center che offrono servizi cloud. Chiaramente la cosa fa un po' anche sorridere, perché questo colpirebbe solo i data center presenti in Italia. Non si riesce a capire come visto che prima abbiamo detto, appunto, che per la sicurezza bisognerebbe mantenere i dati sul territorio italiano, questo sarebbe un ulteriore motivo per non tenere i dati sul territorio italiano. Questo semmai, dobbiamo dirlo, semmai verrà preso in considerazione. Già le voci di corridoio sono da colpire. E quindi c'è molta attenzione, perché tra le altre cose, come spesso accade in Italia stranamente, si dorme per molto tempo. La modifica, l'adeguamento dei compensi doveva essere fatto in teoria entro il 31-12 dello scorso anno, quindi siamo con un anno di ritardo, ma di colpo ci si è accorti di questo ritardo e il Ministero ha intendimenti di fare queste modifiche entro la fine dell'anno, ma ancora non sono partite le consultazioni, quindi ancora non sono state sentite le parti. Le parti sono ovviamente l'industria, le parti sono i retailer, io aggiungo anche, vorrei vedere, spero, mi auguro che partecipano anche i consumatori, cittadini, perché poi alla fine gira che ti rigira, sono quelli che pagano. Stiamo parlando di parecchi milioni di euro, addirittura più di 100 milioni di euro? Stiamo parlando, dipenderà molto dalle nuove tariffe, perché qui è chiaro che i moltiplicatori sono importanti. Se viene aggiunto un euro su ogni smartphone, è una cifra che non si sente sul valore dello smartphone, è un euro, ma sono 37 milioni. Quindi 5 euro su ogni smartphone, visto che gli smartphone ormai hanno memoria da 16, 32, 64 GB e quindi memorie importanti, 5 euro su ogni smartphone, stiamo parlando di 150 milioni di euro. Quindi è chiaro che l'ordine di grandezza può essere unitariamente molto piccolo, ma a livello assoluto molto grande se si vanno a scegliere i moltiplicatori giusti. Se venissero tariffate sia i collegamenti a internet, è chiaro che per esempio basterebbe pochi cent su ogni collegamento a internet per ottenere giustamente un ascoltatore via SMS dice ma poi la sai glieli dà questi soldi agli autori? No, questo è un altro capitolo, ne parliamo tra un attimo. Un ascoltatore dice la SIAE la deve pagare anche chi importa dall'estero. In effetti Gianfranco Giardino l'ha detto, dovrebbe, usiamo il condizionale perché non sempre accade, ma accade purtroppo, è una fattispecie nota ma non perseguita a sufficienza, è quella dell'importazione di negozianti, singoli negozianti che comprano dall'estero e rivendono in evasione SIAE, magari mescolando merce SIAE con merce non SIAE, tanto da avere sempre 100 schede di memoria, tanto per intenderci, che hanno pagato SIAE, ma vendono 500, 1000 in magazzino che non l'hanno mai pagata, per esempio. E questo si sa, ma è evidente, quando si crea una sproporzione in cui il compenso, che è un compenso solo locale, solo italiano, e anche qui tutti dicono adeguarlo alle medie europee, ma le medie europee ci sono 100 modi per calcolarle. E allora, per esempio, prendiamo il caso di UK. In Gran Bretagna non esiste il compenso per copia privata, perché la copia privata è una fattispecie che non è normata, cioè non è che è vietata, semplicemente non è normata. In teoria non si potrebbe fare, poi esistono e vengono vendute degli apparecchi che permettono una copia, oggi molto meno di prima, oggi le copie si fanno poco. In UK non ci sono, questi compenso che vale zero non entra nelle medie perché vale zero, ma se entrasse nelle medie pesato col giro d'affari della Gran Bretagna è chiaro che abbasserebbe molto questa media. Bene, ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, oggi in diretta da Forum Agenti Fiera Milano, ci sentiamo tra un minuto. 2024. Di nuovo in diretta da Forum Agenti, siamo alla Fiera di Milano dal vivo, salutiamo anche i nostri ascoltatori che ci ascoltano nella replica notturna della domenica sera. Questo è 2024, io sono Enrico Paglierini, con me c'è Gianfranco Giardini, il direttore del magazine digitale D-Day. It, stiamo parlando del compenso per copia privata. Ieri un collega mi faceva notare, io sono abbonato ad un servizio di streaming musicale, oggi questo è un servizio che va oltre che molto di moda, anche molto molto comodo, si paga un abbonamento e si può ascoltare tutta la musica che si vuole. Già, giustamente dice, io pago questo servizio e poi automaticamente devo anche pagare una quota alla SIAE sul mio tablet, sul mio computer, sul mio smartphone, ma per quale motivo? Che ho già pagato il servizio, non ci sarebbe nessun motivo, giusto? Infatti uno dei problemi è questo, cioè la doppia, tripla, quadrupla imposizione, cioè se vengono tariffati sia i supporti, sia gli apparecchi, e forse anche le reti, magari anche lo storage remoto, è chiaro che per lo stesso dato, che non è una copia, perché semplicemente quando io ho i miei dati in cloud non faccio una copia per un utilizzo diverso, semplicemente per accedere in un altro momento allo stesso dato, per esempio diciamo, in mobilità. Diciamo così, allora il mondo, infatti per questo che secondo me è un tema che si lega molto alla trasformazione tecnologica che alla quale stiamo assistendo e che abbiamo assistito alla quale abbiamo assistito negli ultimi anni, il mondo è così cambiato che questa costruzione, che questo meccanismo sul quale si basa questo tipo di compenso non ha più senso. Probabilmente non hanno più senso molte altre cose legate al diritto d'autore, perché basterebbe mettere dei tag sui file quando si compra una canzone e il compenso per il diritto d'autore va a finire direttamente nelle tasche degli autori, perché rispondendo poi all'ascoltatore che ci domandava ma poi la SIAE questi soldi li gira agli autori che giustamente devono essere ripagati del proprio lavoro? Ecco, questo è un altro dei problemi. In questo momento, guardando i bilanci e la gestione della SIAE, ecco, questo non sta accadendo. In realtà la SIAE lavora in una maniera anomala che non sarebbe concessa fondamentalmente quasi a nessuna azienda privata di sicuro, ma quindi quella di lavorare quasi con dei costi a piedi lista, quindi raccoglie, spende per fare questa raccolta e quello che avanza viene ridistribuito. Ecco, questo tra le altre cose, nel caso specifico del compenso per copia privata, resta anche bloccato perché non si sa bene a chi ridistribuirlo. Ma è vero che l'industria raccoglie i soldi e non li versa alla SIAE perché c'è un contenzioso? Sì, c'è questo contenzioso, quindi sono depositati, come dire, protetti, garantiti, ma non vengono in questo momento effettivamente versati. Quindi già questo blocca tutto. E c'è l'altro aspetto assolutamente importante, che è quello appunto del fatto che se io pago l'equivoco, pago, quindi pretendo qualche cosa in cambio, certo, di questo pagamento. E uno dei grandi equivoci è che si possa pensare che pagando il compenso allora posso scaricare illegalmente, perché tanto ho già pagato il compenso per copie private, quindi il mio hard disk lo riempio, certo, di musica che viene da dovunque. Certo, questo non si può fare. Cioè, non è che pagare questo compenso è una sanatoria nei confronti della pirateria, non se ne parla neanche, certo, ci mancherebbe. Non è una sanatoria neanche nei confronti di quello che si faceva 20 anni fa, 30 anni fa. 20 anni fa io venivo da te, avevi un bel disco, dice fammi una cassetta, mi facevi la cassetta e tornavo a casa con la mia cassetta. Ecco, se io ho un amico che ha un disco, poi lo faccio e non succede niente, nessuno mi viene a prendere, però non posso legittimamente farmi la copia neanche di un disco che non è mio, perché non è legittimamente posseduto. Quindi proprio per far capire, perché sennò qualcuno potrebbe dire va tutto sommato, cosa vuoi che sia, qualche euro su un hard disk con tutta la musica che ci metto su, e quindi questo chiaramente non è. Ci sono degli esempi che funzionano bene. Faccio l'esempio di Amazon, ne cito uno, per cui chiaramente con gli ebook, no? Tutti i libri che io ho comperato fisicamente su Amazon, adesso arriva l'offerta ebook, me li ritrovo scaricabili gratuitamente in ebook o con piccoli sovrapprezzi per il servizio aggiuntivo, ma insomma viene riconosciuto il fatto che io ho già comperato quel contenuto e quindi ho la mia copia digitale, per esempio, disponibile. Lo stesso avviene per esempio con i DVD, lo stesso avviene con i Blu-ray, che hanno la digital copy disponibile, in alcuni casi già compresa, in altri casi scaricabile anche in alta definizione con piccoli sovrapprezzi. E qui è un altro vulnus: perché pagare un compenso per copia privata quando i supporti sono protetti contro la copia? Il DVD è protetto contro la copia, il Blu-ray è protetto contro la copia, e allora i casi sono due: o io violo la legge e aggiro la protezione, ma è un reato e non si può fare, oppure non posso copiare. Allora ditemi se quando io pago per un DVD R sul quale vado a scrivere probabilmente una copia di un altro DVD, o pago il DVD-R, il compenso, perché sto facendo una copia anche se è legittima, oppure il compenso per copia privata è una sorta di sanatoria di un reato? Non lo so, me lo chiedo. Esatto, esatto. Abbiamo raccontato quello che sta succedendo, poi vedremo nelle prossime settimane che cosa accadrà, ma direi che una delle lezioni che si può trarre da quello che stiamo raccontando oggi, quello che stiamo vedendo tra Ministero, SIAE e industria, perché l'industria mi risulta che sia abbastanza indispettita da quello che sta succedendo, magari non lo fa vedere come forse dovrebbe farlo vedere, ma insomma voci che noi abbiamo contattato sono molto esplicite. Tutto ciò per dire una cosa molto semplice, che forse le normative in generale, al di là di questo, vanno adeguate a un'evoluzione tecnologica che è sì veloce, ma che è evidente, e quindi forse proseguire e continuare su certi meccanismi, su certi binari che abbiamo visto, forse non è corretto. Io ringrazio Gianfranco Giardina per essere stato con noi, per essere venuto qui nel nostro studio esterno oggi a Forum Agenti Fiera Milano. Sicuramente su D-Day voi continueremo a seguire i lavori fino alla determinazione di questi compensi, e quando saranno definitivamente determinati ovviamente commenteremo le decisioni che speriamo che saranno lucide. Sì, ma io spero che non vengano rideterminati, spero che venga cambiato il meccanismo. però si potrebbe fare, esatto. Però credo che dalle parti sia più semplice fare come si è sempre fatto. 2024. 2024. 2024. 31 seconds and we're going for